95.0 Açık Radyo'dasınız. İtabella'dasınız. Çizmeden çıkan her türlü tını bu hafta sizi çizmenin topuğuna yani Puglia'ya davet ediyor. Matteo Salvatore'nin Pugliese halk şarkıları bugün bizlerle olacak. Matteo Salvatore Apricena'da ki Apricena Foggia'ya yakın minik bir kasaba 1925 yılında hayata gözlerini açıyor. Çocukluğu 1. Dünya Savaşı'nın ve daha sonrasında önce kendi memleketinde sonra tüm İtalya'yı etkileyen yoksulluk içinde geçiyor. Bu sebeple ki şarkılarının sözlerinde tekrar eden ana temalar halinde yoksulluk ve bu umutsuzluk yer buluyor. Puglia ve özellikle Gargano'nun yani bizim çizmenin mahmuzu olarak anılan bölgeye has şarkıları yorumlarıyla tanınan Matteo Salvatore, müzik hayatına Puglia'da bir radyoda görev yaparak başlıyor. Sonradan zamanla hem müzisyen hem de bir halk edebiyatı şairi oluyor. 2005 yılında 80 yaşında hayata gözlerini yuman Matteo Salvatore, Puglia müziğine verdiği emeğin yanı sıra emeğin kendine verdiği değerle de İtalyanların gönlünde ayrı bir yere sahip. Şimdi kaydedilen son konserinden bir parçayla başlayacağız. Yanılmıyorsam 1 Mayıs etkinlikleri sırasında 2004 yılında düzenlenen Foggia Ariston Tiyatrosu'ndaki bir konser kaydı dinleyeceğiz. Matteo Salvatore'ye Teresa Desio ve Vinicio Capasella eşlik ediyor. Güney diyalektindeki bu parçada hayatın tek düze adaletsizliğini çok farklı dörtlüklerle anlatıyor ve şöyle bitiyor. Yaşlı kadın ölmek istemiyor. Genç adam yaşamak istiyor. Ölüm bunu bilmek istemiyor. Her kimse sıradaki onu almaktan geri kalmıyor. Rapatata Tumba ile Matteo Salvatore, Teresa Desio ve Vinicio Capasella. Şimdi Itabella'da. Bravo da bomba bomba baba da bomba bomba bomba ba. E entra il ruruscio e ci ha pigliato la roccia e con la botta di doccia ha fatto un figlio che la che paroccia e con la botta di doccia ha fatto un figlio che la che paroccia. Brabada bomba bomba bomba brabada bomba bomba bomba brabada bomba bomba bomba brabada bomba bomba bomba. Se io non tengo niente, mi mangia la pulente, mi mangia la pulente prima ma botte tu malente. Mi mangia la pulente prima botte tu malente. Brava da tumba tumba da, brava da tumba tumba da, brava da tumba tumba da. L'acqua al lumere, la farina al mulinere, chi pecora ce fa, lo lupo ce l'ha da mangiare. Chi pecora ce fa, lo lupo ce l'ha da mangiare. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba da. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba ba. Quale c'è zappe, quale c'è butto, non te che ti edi, non te che le butto. Quale tempo di vedegnarsi, edi di qua e di fuori di là. Quale tempo di vedegnarsi, edi di qua e di fuori di là. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba da. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba da. Aspetta ciuccio mio quando viene la paglia nuova, a voglia tu arraggiare quante paglia non ci sta. A voglia tu arraggiare quante paglia non ci sta. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba da. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba da. La vecchia non può morire, l'ugione può cambiare, la morta ce ne frega, chi tocca tocca la tanga fa. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba da. Brava da tumba tumba tumba, brava da tumba tumba da. Mamma mamma sono lunga le ore, gaffa di mosca, nasa lo sole. se un tempo non può passare, dopo un cappetto rifà le culà. Rapatatumpa dinledik. Matteo Salvatore, Teresa Tessio ve Vinicio Capacela'dan. 1950'lerde tipik olarak oldukça neşeli, hatta komedi havasının hakim olduğu eğlenceli anekdotlarla zenginleştirilmiş balatlar besteledi ve bunları seslendirdi. Ardından Claudio Villa tarafından keşfediliyor ve küçük kendi plak şirketi için, Viz Radyo için bir sözleşme yapıyorlar ve ilk çıkışını 1955 yılında aynı gün yayınlanan ve tek bir oturumda kaydedilmiş 6 şarkıyı içeren 78'liklerle yapıyor. Şimdi bu 6 parçadan 2 tanesini dinleyeceğiz. Önce Il Carattiere, arkasından da Margarita ile Matteo Salvatore. Şimdi Itabella'da. Vede sui tetti i gatti cercare in vano il sole, ma qui non c'è calore. Zitta mi, pingeci tu, chiove, chiove, chiova, cielo grigio che ti anda se tu, nebbia, tanta nebbia, lo cuore mio non resiste più. Casa, dolce casa, t'ho lasciata dove stai tu. La spina dinta luco, i mamma mo, i mamma mo. Spina d'indalo core, i mamma mo. Vi voglio bene a tutti, signorina, zitella, cicata, vedova e brutti. Vieni al cabaret, oi Margherita, vieni con me. Vieni al cabaret, oi Margherita, vieni con me. Ti porto a Berri, a vedere l'umere, a zicchete con me. Io voglio bene a te, ti porto a bere, a vedere l'umere, a zicchete con me. Io voglio bene a te, Margherita, Margherita, tu non vuoi bene a me, da mano esce, a zicchete con me, fammi guasciare sta bocca. Voglio un zucchero, no, i cascietti, no, i cascietti, no, Margherita, Margherita, Margherita, Margherita, tu non vuoi bene a me, da mano esce, azzicchete con me, fammi guascia sta bocca, e voglio un zucchero, no, i casci e tu no, i casci e tu no, Margherita, Margherita. Il Carrettiere, arkasından da Margherita dinlemiştik Matteo Salvatore'den. Matteo Salvatore tek göz bir odada, anneleriyle babalarını bir perdeyle ayırdıkları küçücük bir odada dünyaya geliyor ve burada geçiriyor bütün çocukluğunu. Burada yiyor, burada yıkanıyor, burada tuvalete giriyor ve o yüzden de az evvel belirttiğim gibi çocukluğunda geçirdiği yoksulluk onun ileriki derdini anlatma haline de şekil vermiş oluyor. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın sözlerini hiç bilmeseniz bile, hani gözlerini kapatsanız öyle bir yoksulluk yakarışı sezersiniz ki bence onun sesinden, onun sesinin cızırtısından bunu hissedeceksinizdir. Dinleyeni önce Latince ne olursa olsun devlete ve güce itaat etmesi gerektiğine dair buna davet eden bir ilahi yakarışla başlıyor. Daha sonra oldukça ağır bir devlet sorgulayışını dile getiriyor ve şöyle diyor: devlet taştan bir kurttur, dişleri yoktur, o yüzden ısırmaz ama kurt kurt kalır. Yiyeceksiz ve çobansız zavallı güney koyunları ondan her zaman korkarlar. Sempre poveri, her zaman yoksulla, Matteo Salvatore, şimdi Itabella'da. Stato status dominus domini subissus abennus, dicevano i nostri padri. Lo Stato è da sempre ingagliata nelle secche di eboli. Lo Stato è un lupo di pietra, non morde perché non ha denti, ma rimane il lupo. E le povere pecorelle meridionali con problemi di cibo senza pastore ne hanno paura. Le stelle della legge non possono proteggere le stalle. Sembra povero, non si mestete, d'indasta lote, ma sembra appetete. Questa lotta è un brutto cavuto, per non poveretto la vita è venuta. Chi sta buono non crede alla maleta, chi sta sazia non crede alla fame. Chi sta buono non creda la maleta, chi sta sazio non creda la fame. Scancellateci dalla società, per noi poveretti pietà ce ne sta. Stanno detto tanto antico, magnate la scorcia, sparagna la mollica. La mollica te la magna stasera, e al lume di candela e poteva cucare. La mollica te la magna stasera, e al lume di candela e poteva. La la la la la la la la la la la la la la la. Matteo Salvatore'dan dinledik Sempre Poveri. Matteo Salvatore bir röportajında Apriçana sakinlerinin %90'ı okuma yazma bilmezler. Çünkü okula kaydolmak için 5 liret ödemek zorundalardır. Ve eğer bunu öderlerse sonraki günlerini yalnızca ne yiyeceklerini düşünerek geçirmek zorunda kalabilirlerdi. Evin içinde sokaklarda çıplak ayakla dolaşıyorsunuz. Bir çift ayakkabıyı, yiyecek parası bile olmayan küçük kız kardeşi Maria'yı işte bu bozulmanın en talihsiz kurbanlarından biri olarak yetersiz beslenme sebebiyle 14 ya da 15 yaşındayken kaybediyor. Bu, Salvatore'nin hem yoksulluğa hem de güce isyan eden dizeler yazdığı döneminde belki de başlangıcı. Sırada dinleyeceğimiz parçada Matteo Salvatore şöyle söylüyor. Patronum, seni zengin etmek istemiyorum. Köpek gibi çalışmak istemiyorum. Haksızken beni dövüyorsun. Benim 3 çocuğum var. Ben onlara ekmek götürmek istiyorum. Padrone mio'yla, patronum ile Matteo Salvatore. Şimdi Itabella'da. Padrone mio, ti voglio arricchire. Padrone mio, ti voglio arricchire. Come nucchina i voi fatti. Come nucchina i voi fatti. Quando sbaglio dammi le botte. Quando sbaglio voglio l'amore te non ne caccia. I tengli figli che vogna lo pena chi ce lo daia e lutata. Padrone mio, ti voglio arricchire. Matteo Salvatore'den dinledik Padrone mio. 1955 yılında yayınlanan taş plaklarından sonra bu hikaye anlatıcısının artık kayda değer bir şöhrete ulaştığını biliyoruz. Ve buna ek olarak da Rai'de radyo programına başlıyor. Piccolo Paese'ye davet ediliyor ve birkaç kere daha tekrarlıyor. Şimdi bu dönemin evvelinde de göç çağı geldiğinde tabii ki hedef pek çok Güneylinin olduğu gibi Salvatore için de Roma. Ve o andan itibaren geleceğin şarkıcısının bestelerine kendinden başka hiçbir şeyin ilham vermediğini az evvel dinlediğimiz gibi görüyoruz. Her bir balat 1925 ve 1950'ler arasındaki hatıralarına dayanıyor. Ya sanki hani hafıza kutusu orada mühürleniyor. Bunların ilklerinden bir tanesini dinleyeceğiz. Lupuliese a Roma. Roma'da bir Pulyalı isimli bu parça. Tabii ki yine Apriçana'daki anılarından çıkan bir balat. Matteo Salvatore. Şimdi Lupuliese a Roma ile Açık Radyo'da. Sono un pugliese e son venuta a Roma. La prima cosa vista è stato un cupolone. Cammina per lo corso e sento un fischietto. La guardia mi chiameva e in l'anno soleva. E mentre mi gireva la guardia tre tripede, mangappa che la giacchetta e mi dice ferma qua. Lei è in contravvenzione, favorisca i documenti. Innefattamente, ma risa che fu da me. guardato quel segnale non si passa quando è rosso, perciò non fame mossa, dovete qui pagare. Allo paese mio questi segni non ci stanno, e non capisce niente, marescia che vuoi da me. Non faccia il prepotente, favorisca i documenti, se lei non vuol pagare, non importa, pagherà. M'hanno detto, voglio tu stai attenta, a Roma è malamente quando attraversa, non voglio più sapere, non ci voglio più pensare, con tutte sti remure m'hanno fatto un bambale, che ha avuto, avuto, che ha detto, scordiamoci un passetto e non voglio più sapere. Scusate buona gente, dove campo dei fiori, voglio sentire l'odore che m'hanno raccontato, è vera e bella piazza, io non credevo ancora, questo campo di fiori mi voglia ricreare. È bello sto marchetto come il paese mio, ci vengono tutte cose, pure le scarpe Maria Rosa. È bello sto marchetto come il paese mio, ci vengono tutte cose, pure le scarpe Maria Rosa. Claudio Villa ile tanışmasından sonra hızla ilerleyen bir kariyeri oluyor. Hem radyoda hem pek çok başka firmalarla çalışmaya başlıyor. Eşi Ida ona bestelerinde yardımcı oluyor çünkü o okuma yazma biliyor. Ve onun için müziği ve kelimeleri tabiri caizse düzene koyan bir işbirlikçi oluyor ona. Arkasından Combo Record, Tan Record, Universal, Vedetta gibi pek çok farklı plak şirketleri için balatlar üretmeye ve kaydetmeye başlıyor. Ve bu dönemde Matteo'nun bir gizli ortağı var. O da vokalisti Adriana Doriani. Şimdi bu çok üretimli geçen yıllardan biri olan 1963 yılından iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Önce I Pettegolezzi della Vecchia, arkasından da Il Banditore ile Matteo Salvatore şimdi Açık Radyo'da. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sentite i pettegolezzi che la vecchia racconta quando si trova in mezzo alle comari. Ne dice un sacco e una sporta, ma volesse sapere quando lei era verde quelle che combinava, e mi pare che si è data fa pure mo. E mo sentite quello che vi racconta la vecchia. Oggi il mondo tutto si è cambiato, le signorine d'oggi sono diverse, le vedi passeggiate tutte scollate, la veste corta ancora più su, le mutandine troppo trasparenti, la maggioranza non ce l'ha per niente, e quando se ne tornano alla casa con ne fa fesse pure lì parente. Ma guarda qua che mi è andato a capitare, pure lui vestito e macchiato come a fa, mezz'ora fa mangiando là quella ricotta sei andata a piccicà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Questa vecchia c'è troppa criticona, stanotte s'abbracciava lo scubatore, l'ho vista nel buco della mascatura, la vecchia stava tutta nuda nuda, tutta contenta lei se la godeva, quando il vecchio forte la stringeva, faceva la sborfiosa e sospirava, ma chi l'avesse detto a quell'età? Ma guarda qua, ma guarda là, pur le vecchiette ci fanno là per là. Attendi qua, attendi là, quando è finita se ne cadono là per là. attendi qua, attendi là, qua nessuno te se ne cade da là per là. Attendi qua, attendi là, qua nessuno te se ne cade da là per là. La la la la, la la la la, la la la la, la la la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la, la la la la la la, la la la la, la la la la, la la la la. Popolo dello paese, sentite, sentite, sentite, è proibito agli spurcatri tali mura che hanno fatto il ricorso allo delegato, e il delegato l'ha detto allo sindaco, e lo sindaco l'ha detto allo vice sindaco, lui c'è sindaco l'ha detto l'assessore di guardia, l'assessore di guardia l'ha detto lo capo guardia, lo capo guardia l'ha detto la guardia me l'ha detto a me, e io lo dice a voi, se no passa la gendarma marina, vi taglia la capa e vi fa morire. Che voi senza sto paese non ci stanno gabinetti, io e craca l'hanno mette e non l'hanno messi più. Quando avevo un ovesino che sempre quindi ci diceva, ci pensava tutti isse, ci faceva tutta fessa, ci faceva un portafoglio a tutti quanti, ci imbrugliava, isse steva, la ricchezza, stemme e stima, la bottezza, questo è il paese nostro. Come la macumbena, dalla sera alla mattina, puzza cance poca ma, quando avevo un ovesino che sempre quindi ci diceva, ci pensava tutto isse, ci faceva tutta fessa, ci faceva un portafoglio a tutto quanto, ci un brughiera, isse steva la ricchezza, stemme e stima, la munnezza, questo è il paese nostro. Come la macumbena, dalla sera alla mattina, puzza cange poca ma, quando avevo un ovesino che sempre quindi ci diceva, ci pensava tutta isse, ci faceva tutta fessa, ci faceva un portafoglio a tutti quanti, ci imbrugliava, isse steva la ricchezza, stemme stima, la munnezza, questo è il paese nostro. Come la macumbena, dalla sera alla mattina, puzza cange po campa. I pettegolezzi della vecchia, yaşlı kadının dedikodusu ve Il Banditore dinledik, mezatçı. Bu dönemin 60'ların yani özellikle Matteo için en üretken dönem olduğunu söylemiştik. Ama 60'lı yıllarda başarı, aile ve işte bu aşk üçgeni sebebiyle ailesi onu Milano'ya taşınmaya ikna etmeye çalışıyor. Fakat o geri dönüyor. Ve en üretken yılları dediğimiz işte hem Rai'de, sadece Rai'de de değil, tüm radyolarda ve programlarda artık bir Puglia'nın kahramanı haline gelen bir Matteo Salvatore var. Çünkü daha önce radyolarda Napoli şarkıları dinleniyordu, Sicilya şarkıları dinleniyordu. Ama Matteo Salvatore ilk defa Puglia diyalektini ülke çapında dinlenir hale getirmiş bir kahramandı belki İtalyan müziği için. Şimdi yine gene aynı dönemden 1962'den iki parçayı arka arkaya dinleyeceğiz. Bir tanesi bir tarantella gibi, Giratonda Pugliese, bir yuvarlak Pugliese dansı. Onun arkasından da Zingarella, şimdi Açık Radyo'da. (Gülüyor) e tutto fuori e tutto a fatia, tanta soldi a da portà. Patere in celle, celle, celle, patere in celle, celle in ciambo. Giro, giro, giro tondo, questo mondo quanto è tondo. Bella femmina, porta l'acqua, con l'acqua retterra anche bene. C'entro un pecchetto lupede, gli è caduto sul marciapiede. Patere in celle, celle in celle, patere in celle, celle in ciambo. Giro, giro, giro tondo, questo mondo quando è tondo. Noi e io che tata ha fatto, li soldi la guadagnete, tutti quanta mamma nieto. Giro, giro, giro tondo, quanto è largo, quanto è tondo. Noi e che lo paese, basta che ce po magniamo. Quando noi teniamo femme, stiamo tutte dintre chiesa. Chi more more, chi campa campa, chi è domenica e ci magna, macarone con la carne. Chi la magneta, gli è fortunata, mezza noi ce ne sono tanti, che non la manca saggetta. Quanta guagliuli de su gocce sombre tete, tenno tutto lo musso rosso per far vedere canna magneto. Patere in celle, celle in celle, patere in celle, celle in ciambo. Giro, giro, giro tondo, questo mondo quando è tondo. Amma finuto da yucca, ce ne iemo a riterano. Alla prossima domenica ci vediamo tutti qua. Padre in celle, celle in celle, padre in celle, celle ciamo. Giro, giro, giro tondo, questo mondo quanto è tondo. Padre in celle, celle in celle, padre in celle, celle ciamo. Padre in celle, celle in celle, padre in celle, celle ciamo. Zingare, zingare, io ti voglio bene a te. Zingarella, anima bella, vieni a quest'anima a consolare. Zingarella, anima bella, vieni a quest'anima a consolare. Tiri tu le, tiri tu là, tiri tu le. Lela, tiro du len, tiri du la, tiro du le, lela. Zingare, tu sei l'amore. Zingare, di questo cuore. Zingarella, anima bella, vieni a quest'anima a consolare. Zingarella, anima bella, vieni a quest'anima a consolare. Tiro tu le, tiri tu là, tiro tu le, lela. Tiro tu le, tiri tu là, tiro tu le, lela. Tina bella, questi regina, anima bella, vieni a quest'anima a consolare. Zingarella, anima bella, vieni a quest'anima a consolare. Tiri tu le, tiri tu là, tiri tu le, lela. Tiri tu le, tiri tu là, tiri tu le, lela. Zingare, tu sei l'amore. Zingare, dammi un abbraccio, stringimi forte, io non te lascio più. Voglio te solo, fino alla morte, io non te lascio più. Dammi un abbraccio, stringimi forte, io non te lascio più. Voglio te solo, fino alla morte, io non te lascio più. Tiri tu lei, tiri tu là, tiri tu lei. La, tiri tu le, tiri tu la, tiri tu le la. Girotondo Pugliese ve Zingarella dinledik Matteo Salvatore'den. Bu üretimin çok iyi olduğu dönemde Adriana ile tutkulu bir aşk yaşıyor. Ama enteresan ki para kazanamıyor. Yani çok para kazanamadığı bir döneme gidiyor ve işte farklı şirketlere, birden fazla plak şirketine aynı kayıtları satıyor falan. Böyle bir kötü idare edilmiş bir dönemi var. Ve o dönemin arkasından da mücadele yılları başlıyor. Biraz daha politik bir tarafı ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle Ivan Dallamea, Paolo Pietrangeli ve Giovanna Marini ile birlikte politik şarkılar oluyor. O dönemde yayınlanan, 1970'lerde bu, çok önemli bir albümü var. Dilencilerin Ağıtı diye. Ki kendi annesi de uzun müddet babası hamallık yaparken annesi de dilencilik yapıyor. Ve sonra babası bir şekilde hapse giriyor. Ve hapse girdiğinde sonradan çok büyük bir sendika temsilcisi, işçi sendika temsilcisi olacak. Giuseppe Di Vittoria ile birlikte aynı hücrede kalıyorlar. Lucera'da babası. Ve babasıyla Giuseppe Di Vittoria, Matteo vasıtasıyla bir parça yazıyorlar. Il Lamento dei Mendicanti albümünde arka arkaya yer alan bu üç parça, Lienni Difficili di Apricena ön başlığıyla devam ediyor. Şimdi biz bunlardan iki tanesini dinleyeceğiz arka arkaya. Önce Idu e Fannuloni, arkasından da az önce bahsettiğim Eviva la Repubblica ile Matteo Salvatore, şimdi Açık Radyo'da. Hitler Mussolini sono stati due assassini. Hanno voluto fare la guerra per dominare mare, cielo e terra. Allo tempo degli fascisti attaccavano i manifesti, le donne hanno figlia, lo popolo ha da aumenta. Quella donna che hanno figliera gli va a pregare santo la zera per un figlio 3.000 lire. Se era mascolo 5.000 lire. Chi lo chiamava Benito, doppio premio e favorito. So passate un poco d'anni, lo paese pieno di guagliule, tutti scavezzi affameti, quello premio ci ha rovinati, allo sangue di chi te morto, che te pozze nascide in ganna. Allo sangue di chi te morte, che te pozze nascide in ganna. Uè che grossa fregatura, là, con mamma fa questi creature. Fratelli tutti uniti, facciamo l'Italia nuova. Ci hanno rimasti nudi tutti traditori. Dobbiamo distruggere tutte le radici. Rimaniamo amici con tutte le nazioni. E vivo la Repubblica dei lavoratori. E vivo la Repubblica della libertà. E la Repubblica è bella, non va trovando guerra, vuole la libertà. Tutti dobbiamo lavorare, chi sono i cristiani? Siamo noi i lavoratori, dalla mattina alla sera buttiamo il sudore. E vivo la Repubblica dei lavoratori. La Repubblica della Libertà. Matteo Salvatore'dan dinledik. I Due Fannuloni ve Eviva la Repubblica, ki bu parçaların ön metni de Gli anni difficili di Apricena'ydı. Yani Apricena'nın zorlu yıllarıydı. Faşizm karşıtı, Hitler ve Mussolini'ye karşıt sözleri barındıran iki parça dinledik arka arkaya. Arkasından bir dönem oluyor ki bu politik şarkılar döneminde biraz tepki çektiği bir hal alıyor mevzu ve 1972'de Foggia'ya geri dönüyor ve Foggia'da Cassa del Mezzogiorno tarafından finanse edilen bir dizi rezital düzenlemeye başlıyor. Şimdi biz bu 1972-73 döneminden iki parçayı dinleyelim. Stu cavolo, ve lo grillo e la formica. Şimdi İtabella'da. La fresca insalatina, il cavolo cappuccino. Andiamo a far l'amor sui prati tutti in fior, ci stringeremo a cuore a cuore. La fresca insalatina, il cavolo cappuccino. Andiamo a far l'amor sui prati tutti in chioc, ci stringeremo a cuore a cuore. Che belli capelli che tiene sta campagnola, che belli capelli che tiene sta campagnola. I capelli son bella, sì che da me facciamo l'amore, quanto è buona sta campagnola, ce lo do con tutto il cuore. Che bella bocca che tiene sta campagnola, che bella bocca che tiene sta campagnola. Lo bacio è bello con la mano sotto la gonnella, la ta mano to tocca i fianchi, so straccette le mutande. Che bello pette che tiene sta campagnola, che bello pette che tiene sta campagnola. E è bello e è pezzuto, te lo corpetto, lei lo tiene troppo stretto, lei lo tiene troppo stretto. Che bella trippa che tiene sta campagnola, che bella trippa che tiene sta campagnola. La trippa è bella e meglio buona la caccavella, sta suonata quando è bella, su ballano la tarantella. E ho già raccolta la fresca latina, e ho già raccolta la fresca insalatina. La bella campagnola ha preso sto cavolo cappuccina, quando era buona la campagnola, di salute è stata buona. la fresca insalatina, il ca, stu cavolo cappuccino, andiamo a riposar, l'amore è tanto bello, ma però te fa stancar. Grillo canterino va portando la serenata, va sotto alla finestra della formica innamorata. Parapaponzi, ponzi, pera, parapaponzi, ponzi, pan. S'accende una luce, la fenestrella s'apre, s'affaccia la formichina, tutta pronta con la patanina. Parapaponzi, ponzi, pera, parapaponzi, ponzi, pan. Vola lo grillo, va sulla finestrella, incappa la formichella e le rompe la patanella. Parapaponzi, ponzi, pera, parapaponzi, ponzi, pan. Oi grillo mio, vattene stanotte, se de lo formicone t'adda gonfia de botte. Parapaponzi, ponzi, pera, parapaponzi, ponzi, pan. Domani mattina t'aspetto la fontanella, nessuno ha da sapere che t'en grotta la fornacella. Parapaponzi, ponzi, per, parapaponzi, ponzi, pan. Di notte lo grillo pei campi se ne va, e grano e fave ceci lo mariolo va a rubà. Parapaponzi, ponzi, per, parapaponzi, ponzi, pan. Venuto lo grano, lo grillo in un signore, e può compra l'anello alla zitta del cuore. Parapaponzi, ponzi, per, parapaponzi, ponzi, pan. Trascione in chiesa, già pronto è l'anello, se inciampa lo grillo e si rompe lo cervello. Parapaponzi, ponzi, per, parapaponzi, ponzi, pan. Piange la sposa e piangono gli invitati, lo grillo è morto e sono tutti addolorati. Parapaponzi, ponzi, per, parapaponzi, ponzi, pan. La povera formichella tutta afflitta se ne va, la pignatella rotta non si può più riparare. Con la chepa tutta caletta lei si guarda la pigneta. Con la chepa tutta caletta lei si guarda la pigneta. Con la chepa tutta caletta lei si guarda. 1970'in sonunda Matteo kendini San Marino hapishanesinde buluyor. Çünkü çok ciddi bir suçlamayla karşı karşıya kalıyor. O da Adriana Doriani'nin öldürülmesi. Yıllar sonra pek çok arkadaşı bunu yalanlıyor. Hatta davayı yeniden açmak için bir ceza avukatı tutuyorlar. Ve bunun bir kaza olduğu, 15 yıllık omuzu olduğu ve bir tartışmanın zirvesindeyken güya böyle bir şey sebep oldu. Böyle bir şeyin başlarına geldiğini söylüyor. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Önceleri tek bir mısrası, özellikle soldan çok büyük olumlu eleştirileri tetikleyen bir adamken, artık bir isyan değil, biraz daha bir teslimiyetle yani bu rezaletten sonra yaşlılığa ve yalnızlık içinde ölüme sanatsal olmaktan çok insani yavaş bir inişe başlıyor. Bu hafta Itabella'nın konu Matteo Salvatore'ydi. Ve şimdi bu Puglialı adamın Matteo Salvatore'nin La Nuova Bicicletta'sı ile kapatıyoruz. Ben Cansın Sahisen, Itabella'daydınız. Hoşçakalın. Tutte tengono passarello e marite me no. tutte tengono passarello e mio marito no. Zitto marito mi, la caiola la metto in, tu passarello lo metto tu, sentimolo fischio tutte tu. Tutte tenna la candela e marito ne no. Tutte tenna la candela e mio marito no. Zitto marito mi, lo porta l'anno lo metto in, la candela la metto tu, che avvicina tutte tu. Tutte tenno lo poparulo e marito me no. Tutte tenno lo poparulo e mio marito no. Zitto marito mi, la mulagnema la metto i, lo poparulo lo metto tu e magnema tutte tu. Tutte tenno una coccia d'ova e marito me no. Tutte tenno una coccia d'ova e mio marito no. Zitto marito mi, la fria pesce la metto i, la coccia d'ova la metto tu e frino tutte tu. Tutte tenno lo saucicio e marito me no. Tutte tenno lo saucicio e mio marito no. Zitto marito mi, la fria pesce la metto i, lo saucicio lo metto tu e magnena tutte tu. E tutte tenna la chieva e marito me no. E tutte tenna la chieva e marito me no. Zitto marito mi, la mascatura la metto in, la chieva la metto tu, rapima la porta tutte. Tutte tenna la bastuneca e marito me no. Tutte tenna la bastuneca e marito me no. Zitto marito mi, la carota la metto i, la bastunega la metto tu, che bella anzaleta per tutte tu. E tutte tenna la mazza e marito me no. E tutte tenna la mazza e marito me no. Zitto marito mi, e la scopa la metto i, la mazza la metti tu e scupem tutti due.